tu hai adottato un minimo il Tottenham perché è la squadra in cui sta giocando tuo figlio. Per cui sono curioso di sapere come ti dividi. Ma sai, qua tira mi ballo lo slogan che va di moda del conflitto di interessi, no? Purtroppo è capitato quest'anno una stagione per il Tottenham molto milanese, diciamo, tra Inter e Milan. E questo era un turno in cui speravo che non avvenisse lo scontro così, diciamo, fratricida, ma però è andata così e quindi va bene. L'unica cosa che mi dispiace molto, da una parte sono meno preoccupato perché ovviamente Carlo è in panchina e quindi sì, la partita la vedrò più serenamente, ma mi dispiace molto che le due squadre siano incomplete, perché il Milan, sappiamo, Pirlo, Ambrosini, Boateng, Bonera, non può giocare vittime del regolamento di Champions, Van Bommel e Cassano, quindi dall'altra parte non c'è il, come dire, il match winner della partita con l'Inter, Bale. Non ci sarà probabilmente 99% Modric, che è un po' il pirlo della situazione, Crouch c'ha la schiena un po' in crisi anche lui, insomma è una un po' dimezzate queste squadre, che altrimenti, secondo me, data anche la mentalità aggressiva del Tottenham in casa e fuori, gioca più o meno nella stessa maniera, avrebbe dato seguito a una partita sicuramente bella, interessante, divertente per gli spettatori. Questo mi dispiace un po', però insomma, d'altra parte, con tutti questi infortuni che girano nel mondo del calcio, ha colpito anche queste due squadre. Bisogna prepararsi a questo.